Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker. Traduzione di Rosanna Pelà. Diario di Mina Harker. 1 novembre. Abbiamo viaggiato tutto il giorno mantenendo sempre una buona velocità. Sembra che i cavalli si rendano conto di essere trattati bene, perché percorrono l'intera tappa vivaci e volonterosi, senza mai rallentare. Abbiamo già fatto diversi cambi, incontrando sempre circostanze favorevoli, tanto che ci siamo incoraggiati a sperare che il viaggio non sarà difficile. Il dottor Van Helsing è laconico. Dice ai contadini che desidera arrivare in fretta a Bistritz e li paga bene per il cambio dei cavalli. Prendiamo una minestra calda, un caffè o un tè e poi si riparte di nuovo. Il paese è incantevole, pieno di bellezze di ogni genere. La gente è animosa, energica e semplice, sembra dotata di tante belle qualità, ma molto, molto superstiziosa. Nella prima locanda in cui ci siamo fermati, quando ha notato la cicatrice sulla mia fronte, la donna che ci serviva si è segnata e mi ha fatto le corna per tenere lontano il malocchio. E credo si sia presa la briga di aggiungere al nostro cibo una quantità supplementare di aglio. E io l'aglio non lo sopporto. Da allora ho badato a non togliermi il cappello o il velo e sono sfuggita così alle loro superstizioni. Viaggiamo veloci e non avendo con noi un cocchiere che faccia pettegolezzi, tiriamo avanti senza scandalo. Ma suppongo che la paura del malocchio ci seguirà da vicino, costantemente. Il professore sembra instancabile e in tutto il giorno non si è concesso un attimo di riposo, ma ha fatto dormire me per un lungo tratto. Al tramonto mi ha ipnotizzata e dice che la mia risposta è stata la solita: buio, sciabordio di acque e legno scricchiolante. Quindi il nostro nemico è sempre sul fiume. Ho paura di pensare a Jonathan, eppure chissà perché non ho timori né per lui né per me. Scrivo queste righe in una fattoria mentre aspettiamo che ci preparino i cavalli. Il dottor Van Helsing sta dormendo. Povero caro, ha l'aria molto stanca, è vecchio e grigio, ma la sua bocca è ferma e decisa come quella di un conquistatore. E perfino nel sonno mantiene un'espressione di grande risolutezza. Quando saremo ripartiti bisogna che lo convinca a seguitare a riposarsi, lasciando guidare me. Gli dirò che abbiamo ancora giornate davanti a voi, che devono risvegliare sempre l'assalto, proprio quando saranno più che mai necessarie tutte le sue forze. Ecco, è tutto pronto. Siamo in partenza. 2 novembre, mattina. Ci sono riuscita e per tutta la notte ci siamo dati il turno alla guida. Adesso è pieno giorno, limpido, ma freddo. C'è una strana pesantezza nell'aria. Dico pesantezza perché non trovo una parola migliore. Intendo dire che ci sentiamo entrambi oppressi. Fa un gran freddo, ma lo sopportiamo bene grazie alle nostre pesanti pellicce. All'alba Van Helsing mi ha ipnotizzata e io gli ho risposto, dice: oscurità, scricchiolio di legni, acque scroscianti. Quindi il regime del fiume cambia a mano che la barca lo risale. Spero che il mio diletto non abbia a correre altri pericoli oltre a quelli inevitabili. Ma siamo nelle mani di Dio. 2 novembre, notte, un'intera giornata di viaggio. Più avanziamo, più selvaggio diventa la regione e i grandi massicci dei Carpazi, che a Varesti ci parevano così lontani e bassi sull'orizzonte, ora sembrano concentrarsi intorno a noi e a torreggiarci davanti. Siamo tutti e due di buon umore. Io credo che facendo uno sforzo per rallegrarci a vicenda, finiamo col rasserenare anche noi stessi. Van Helsing dice che in mattinata dovremo arrivare a Passo Borgo. Le case diventano sempre più rare qui, e il professore pensa che converrà tenere gli ultimi cavalli che abbiamo preso, perché sarà difficile trovarne altri. Se ne è fatti dare altri due, oltre a quelli che abbiamo cambiato, per cui adesso disponiamo di un robusto tiro a quattro. Questi cavalli sono bravi e pazienti, e non ci creano fastidi. Non essendovi la preoccupazione di incontrare altri viaggiatori, posso guidare anch'io. Raggiungeremo il passo con la luce del giorno, e del resto non desideriamo di arrivarci prima. Quindi ce la prendiamo comoda e a turno ci concediamo un lungo riposo. Che cosa ci porterà il domani? Andiamo in cerca del luogo dove il mio povero caro ha tanto sofferto. Voglia Iddio guidarci sulla giusta strada e degnarsi di proteggere mio marito e coloro che ci sono cari e si trovano esposti a un mortale pericolo. Quanto a me, io non sono degna di presentarmi alla sua vista. Ahimè, Ai suoi occhi io sono impura e tale rimarrò finché egli non si degnerà, se così vuole, di tenermi di nuovo dinanzi a sé, come coloro che non sono incorsi nella sua ira. Memorandum del dottor Van Helsing. 5 novembre, pomeriggio. Sono di mente sana, almeno. Grazie a Dio per questo dono, in ogni modo, sebbene che dimostrare esso è stato atroce. Quando ho lasciato Madame Mina, che dormiva dentro in Cerchio Santo, ho preso mia strada per Castello. Il martello da fabbro che avevo portato da Veresti in carrozza è stato utile. Sebbene che le porte erano tutte aperte, io ho spaccato arrugginiti cardini, per paura che qualche cattiva intenzione o cattiva sorte chiude esse, così che io, essendo entrato, non posso più uscire. Qui, amara esperienza di Jonathan, ha servito me. Con memoria di suo diario, ho trovato strada di antica cappella, perché sapevo che mio lavoro era da fare lì. L'aria era opprimente, sembrava come se c'era un fumo sulfureo che certi momenti mi faceva stordito, o c'era un rimbombo in mie orecchie, o sentivo lontano, lontano ululare i lupi. Allora ho ricordato di mia cara Madame Mina ed ero in terribile situazione. Il dilemma teneva me tra suoi due corni. Lei io non avevo osato portare in questo posto, ma avevo lasciato al sicuro da vampiro in quel Cerchio Santo, eppure anche là poteva esserci il lupo. Ho risolto che mio lavoro era qui in Castello, e riguardo ai lupi dovevamo sottomettere noi, se questa era volontà di Dio. In ogni caso era solo morte e oltre di essa libertà. Così io ho scelto per lei. Se era solo per me stesso, la scelta era facile. Le fauci di lupo erano meglio per riposare in esse piuttosto di tomba del vampiro. Dunque ho fatto mia scelta di continuare in mia opera. Sapevo che erano almeno 3 tombe da scoprire, tombe che erano abitate. Allora io cerco e cerco e cerco e trovo una di esse. Lei giace in suo sonno di vampiro, così piena di vita e voluttuosa bellezza che io rabbrividisco come se ero venuto per compiere assassinio. Ma io non dubito che in antichi tempi, quando queste cose erano, più di un uomo partito per fare opera come questa mia, poi ha sentito suo cuore mancare e anche suoi nervi cedere. Allora lui rimanda, rimanda e rimanda finché la sola bellezza e il fascino della spietata, non morta, hanno ipnotizzato lui. Così lui rimane e rimane finché arriva tramonto e il sonno di vampiro è terminato. Allora si aprono stupendi occhi della bella donna e sembrano amore, e la bocca voluttuosa offre un bacio, e l'uomo è debole. E lì resta ancora un'altra vittima, nella stretta di vampiro, uno di più a ingrossare le spaventose, macabre fila dei non morti. Ma è sicuro che esiste qui una certa malia, se io stesso sono emozionato dalla semplice presenza di una così, anche giacente come essa giace in una tomba, corrosa dal tempo e coperta di polvere dei secoli, e nonostante quell'orrido puzzo, come quello che avevano le tane del conte, sì, ero emozionato. Io, Van Helsing, con tutti i miei propositi e motivi di odio, ero trascinato verso un desiderio spasmodico di rimandare che sembrava paralizzare mie facoltà e inceppare mia stessa anima. Può essere stato che il bisogno di sonno naturale e la strana oppressione dell'aria cominciavano a sopraffarmi. Certo è che io stavo scivolando nel sonno, il sonno a occhi aperti di uno che cede a un soave fascino, quando attraverso l'aria immobile di neve viene un gemito prolungato e basso, così carico di sofferenza e di pietà, e subito mi risveglia come il suono di una tromba, perché era la voce di mia cara Madame Mina che io avevo sentito. Allora io ho rinforzato me di nuovo per mio orrido compito, e strappando via coperchi di tombe ho scoperto un'altra delle sorelle, La seconda, Bruna. Non ho osato sostare a guardare lei, come avevo fatto con sorella, per paura che comincio di nuovo a essere incantato, ma seguito a cercare finché trovo in una tomba grande e alta, come fatta per una molto più amata, quell'altra sorella bionda che io, come Jonathan, avevo visto prendere forma uscendo da atomi di nebbia. Era così bella da guardare, così radiosamente splendida e squisitamente voluttuosa, che mio stesso istinto di maschio, che induce alcuni di mio sesso ad amare e proteggere una di queste, ha fatto ancora girare mia testa di nuova emozione. Ma che Dio sia ringraziato, quel lamento di anima della mia povera madammina non era svanito in mie orecchie. E prima che l'incantesimo riesce ad agire più forte sopra a me, io avevo fatto animo per mio atroce lavoro. Ormai avevo cercato in tutte le tombe di cappella per quello che potevo dire, e siccome solo 3 di questi fantasmi di non morte erano stati intorno a noi nella notte, ho dedotto che non esistevano più altri attivi non morti. Era solo un'altra grande tomba, più signorile di tutte le altre. Immensa era e di nobili proporzioni. Solo una parola sopra di esse: Dracula. Questa era, dunque, la dimora non morta del re vampiro, a cui erano dovuti così tanti altri vampiri. Suo vuoto era eloquente per farmi certo di quello che già sapevo. Prima che comincio a restituire queste donne alla loro vera personalità morta per mezzo di mio orrido lavoro, ho sparso in tomba di Dracula un poco dell'ostia consacrata, e così ho bandito per sempre da essa lui non morto. Poi ho cominciato mia atroce impresa e avevo tremendo spavento. Se era stata una sola, era facile comparativo, ma 3, ricominciare ancora 2 volte dopo che ero stato dentro di un'azione di orrore. Perché se era stato terribile con la dolce signorina Lucy, che cosa non sarà con queste straniere che hanno sopravvissuto per secoli e sono state rinforzate dal passare di anni e che, se potevano, lottavano per loro immonde vite? Oh, mio amico John, è stato proprio il lavoro di macellaio, e se non mi dava forza il pensiero di altri morti e dei vivi su dei quali pende questa cappa di terrore, io non potevo andare avanti. Io tremo, e tremo ancora adesso, sebbene finché non è venuta fine, miei nervi hanno resistito. Se non avevo visto la pace su primo viso e la gioia fugace passata su esso prima che viene dissoluzione finale, come prova che anima ha vinto, io non potevo continuare con mia macellazione. Non potevo sopportare il raccapricciante scricchiolio del piolo conficcato dentro, il sussulto di forma che si contorce e le labbra di schiuma sanguinosa. Io ero scappato in terrore e lasciavo mia opera incompiuta, ma ora è finito. E le povere anime, adesso posso avere compassione di esse e piangere, mentre ricordo esse tranquille in loro completo sonno di morte, per un breve attimo prima che sono dissolte. Perché, amico John, mio coltello aveva appena mozzato la testa di ognuna, che subito l'intero corpo cominciava a sciogliere e sbriciolare in sua polvere originaria, come se la morte che doveva venire secoli prima affermava finalmente se stessa e diceva subito e forte: «Io sono qui!» Prima di lasciare il castello, io ho sistemato tutti i suoi ingressi, in modo che il conte non può mai più entrare lì non morto. Quando sono arrivato dentro cerchio, dove madammina dormiva, essa si desta dal suo sonno e ha gridato di dolore che io avevo sopportato troppo. «Venite!» mi ha detto, venite via da questo orrido sito, andiamo incontro a mio marito, che lo so sta venendo verso di noi. Madame Mina era magra, pallida e debole, ma i suoi occhi erano puri e splendenti di fervore, Io ero contento di vedere suo pallore e suo malessere, perché avevo la mia mente piena di recente ribrezzo per quel sonno di rose e i vampiri. E così, in fiducia e speranza, ma anche in tanta paura, noi andiamo verso est a incontrare i nostri amici. Lui, che Madame Mina, mi dice che sa che essi vengono a incontrare noi. Diario di Mina Harker, 6 novembre. Poco dopo il professore mi ha fatto un cenno. Io mi sono alzata e l'ho raggiunto. Aveva trovato un posto magnifico, una specie di cavità naturale nella roccia, con un'entrata che era come una porta tra due macigni. Prendendomi per una mano mi ha condotta dentro dicendomi: «Vedete? Qui voi siete in riparo, e se vengono i lupi io posso affrontare essi uno per uno». Ha portato dentro le nostre pellicce e mi ha preparato un nido confortevole. Poi ha tirato fuori qualche provvista e voleva costringermi a mangiare, ma io proprio non ci riuscivo. Mi disgustava la sola idea di tentare e, per quanto desiderassi molto di accontentarlo, non sono stata capace di fare la prova. Mi è parso molto rattristato, ma non mi ha fatto rimproveri. Ha tratto il suo binocolo dall'astuccio e, salito su una roccia, si è messo a scrutare l'orizzonte. D'un tratto mi ha chiamata: «Guardate, Madame Mina! Guardate, guardate!» Sono balzata in piedi e l'ho raggiunto sul masso. Egli mi ha dato il binocolo indicandomi un punto. La neve cadeva più fitta e turbinava con forza perché cominciava a levarsi un gran vento. Tuttavia le raffiche si calmavano a momenti e in questi io riuscivo ad avere una vista piuttosto ampia. Dalla nostra posizione elevata lo sguardo si poteva spingere lontano, per cui in distanza, oltre la bianca distesa di neve, riuscivo a vedere il fiume serpeggiare simile a un nastro nero tra curve e anse, proprio davanti a noi e non lontano, anzi tanto vicino, che mi sono domandata come mai non l'avessi notato prima. Un gruppo di uomini a cavallo avanzava di corsa. In mezzo a loro c'era un carro lungo e basso, che ondeggiava di qua e di là come la coda di un cane in festa, a ogni asperità della via. Le figure degli uomini si profilavano contro la neve, e io potevo distinguere dai loro vestiti che erano contadini o zingari di qualche tipo. Sul carro c'era una grande cassa rettangolare. Nel vederla ho sentito un tuffo al cuore perché ho capito che la fine era vicina. La sera era ormai prossima e io sapevo anche troppo bene che la cosa, fino al momento del tramonto imprigionata nella cassa, avrebbe riconquistato la sua libertà e potuto eludere in molti modi l'inseguimento. Spaventata mi sono rivolta verso il professore, ma non c'era, con mia grande costernazione. Un istante dopo, però, l'ho visto sotto di me. Stava tracciando un cerchio, come quello in cui avevamo trovato riparo la notte scorsa. Terminata l'operazione, si è messo di nuovo accanto a me, dicendo: «Qui, almeno, voi siete al sicuro da lui». Mi ha preso il binocolo e, nel primo momento di calma, tra una raffica e l'altra, ha spaziato con lo sguardo sull'intero paesaggio che ci stava davanti. «Guardate!» ha detto. «Essi vengono velocemente, frustano i cavalli e galoppano più forte che possono!» Dopo una pausa ha aggiunto con voce sorda: «Essi gareggiano con tramonto. Forse siamo troppo tardi. Sia fatta volontà di Dio!» A questo punto un intensificarsi della tormenta ci ha accecati, cancellando l'intero paesaggio. Ma le raffiche sono cessate molto presto e il professore ha puntato ancora una volta il binocolo sulla vallata. All'improvviso ha lanciato un grido: «Ecco, guardate, guardate, vedete? Seguono veloci due cavalieri che vengono da sud. Deve essere Quincy e John. Prendete binocolo, guardate prima che la neve cancella via tutto». Io l'ho preso e ho guardato. Sì, i due uomini potevano essere il dottor Seward e il signor Morris. In ogni caso io sapevo con certezza che nessuno di essi era Jonathan, ma nello stesso tempo sapevo che Jonathan non era lontano. Volgendo lo sguardo intorno, ho scorto, infatti, a nord del gruppo in arrivo, altri due cavalieri che galoppavano a rotta di collo. Uno di essi, lo sentivo, era Jonathan, e ho intuito che l'altro, naturalmente, era Lord Godalming. Anche loro inseguivano il carro e il suo gruppo. Quando gliel'ho detto, il professore si è messo a strillare di gioia come uno scolaretto, e dopo aver guardato attentamente, finché la neve non ha reso di nuovo impossibile la vista, ha appoggiato il suo Winchester, pronto per l'uso, su uno dei massi all'ingresso del nostro rifugio. «Stanno tutti convergendo», ha detto. «E quando viene il momento, abbiamo gli zingari da tutte le parti». Io ho tirato fuori la mia rivoltella per tenerla a portata di mano. Infatti, l'ululato dei lupi, mentre parlavamo, si andava facendo più forte e vicino. Quando la tormenta si è placata per un attimo, abbiamo guardato di nuovo. Era strano vedere la neve volteggiare intorno a noi in grossi fiocchi, e più oltre il sole brillare sempre più splendente mentre scendeva verso le distanti vette delle montagne. Volgendo qua e là il binocolo, scorgevo puntolini che avanzavano isolati in due o tre o in gruppi numerosi. I lupi si stavano radunando per scagliarsi sulla preda. Nell'attesa ogni minuto pareva un'eternità. Il vento si era messo a soffiare in raffiche violente, spingendoci addosso la neve che turbinava con furia. A momenti la visibilità era ridotta a meno di un metro, mentre in altri pareva fosse quel vento stesso a schiarire l'aria nel passarci vicino sibilando. Allora potevamo vedere a grande distanza. Da tempo ci eravamo abituati a vigilare sull'alba e sul tramonto, tanto che avevamo imparato a riconoscere con esattezza il loro approssimarsi. Sapevamo quindi che ormai mancava poco al calare del sole. Era difficile credere, stando ai nostri orologi, che avessimo trascorso meno di un'ora, quando i vari gruppi ormai vicinissimi hanno cominciato a dirigersi verso di noi. Il vento tirava più furioso e decisamente da nord, a raffiche ancora più aspre, ma aveva allontanato da noi le nuvole cariche di neve che infatti era quasi cessata, salvo qualche occasionale folata. Riuscivamo a distinguere chiaramente gli individui di ciascun gruppo, gli inseguiti e gli inseguitori. Stranamente gli inseguiti non sembravano rendersi conto di esserlo, o quantomeno preoccuparsene. Pareva tuttavia che raddoppiassero di velocità a mano che il sole scendeva verso la cima delle montagne. Essi si facevano vicini, sempre più vicini. Il professore e io, rannicchiati al riparo di una roccia, tenevamo le armi pronte. Io capivo che il professore era risoluto a non lasciarli passare, ed essi erano del tutto ignari della nostra presenza. D'un tratto due voci hanno gridato «Alt!». Una era quella del mio Jonathan, vibrante di passione. L'altra, quella del signor Morris, aveva il tono forte e deciso di chi impartisce un comando. Probabilmente gli zingari non conoscevano la lingua, ma non era possibile che si sbagliassero sull'intonazione, e in qualsiasi lingua fosse stato pronunziato l'ordine. Istintivamente hanno rallentato e in quello stesso istante Lord Godalming e Jonathan si sono scagliati su di loro da un lato, il dottor Seward e il signor Morris dall'altro. Il capo degli zingari, un uomo stupendo che stava in sella come un centauro, gli ha respinti accenni e con voce aspra ha comandato ai suoi compagni di procedere. Essi hanno frustato i cavalli che sono balzati avanti, ma i quattro uomini per bloccarli hanno puntato contro di loro i fucili, un tipo di ingiunzione che non consentiva equivoci. Nello stesso tempo il dottor Van Helsing e io siamo sbucati fuori dal masso che ci nascondeva per prenderli di mira. Nel vedersi circondati, gli zingari hanno tirato le redini e si sono arrestati. Il capo ha lanciato loro un comando e tutti gli zingari hanno estratto le armi di cui disponevano, coltelli o pistole, preparandosi all'attacco. In un attimo eravamo arrivati alla conclusione. Ho visto che nel frattempo Jonathan da una parte del cerchio umano e Quincy dall'altra si stavano aprendo a forza un varco verso il carro con l'evidente intenzione di portare a termine la loro impresa prima del tramonto. Niente e nessuno sembrava in grado di fermarli e neppure di ostacolarli, né le armi puntate, né il balenio dei coltelli degli zingari che stavano di fronte a loro, o l'ululato dei lupi alle loro spalle parevano attirare minimamente l'attenzione dei due assalitori. L'impeto di Jonathan e la sua manifesta risolutezza sembravano scoraggiare gli uomini davanti a lui, che distinto si ritraevano per lasciarlo passare. In un attimo egli era saltato sul carro e con una forza incredibile aveva sollevato l'enorme cassa per scagliarla in terra al di sopra delle ruote. Nel frattempo il signor Morris aveva dovuto ricorrere alla forza per spezzare il cerchio di Sgani dalla sua parte. Trattenendo il respiro, io seguivo le mosse di Jonathan, ma con la coda dell'occhio ho visto anche mentre Morris si faceva disperatamente avanti, i coltelli degli zingari lampeggiare e colpirlo nel momento stesso in cui irrompeva in mezzo a loro. Morris si è difeso con il suo coltellaccio ricurvo e lì per lì ho creduto che anche lui fosse uscito incolume dalla mischia, ma quando è corso al fianco di Jonathan, che intanto era saltato giù dal carro, con la mano sinistra si comprimeva un'anca e il sangue gli colava tra le dita. Ciò nonostante, Morris non ha perso tempo, perché mentre Jonathan attaccava con disperata energia un'estremità della cassa e tentava di sollevarne il coperchio facendo leva con il suo gran coltello corchi, lui attaccava frenetico il lato opposto con il coltellaccio ricurvo. Il coperchio ha cominciato a cedere sotto gli sforzi dei due uomini. I chiodi stridevano mentre venivano strappati e infine il coperchio è stato rovesciato indietro. Intanto gli zingari, vedendosi sotto la mira dei fucili alla mercé di Lord Godalming e del dottor Seward, si erano arresi e non opponevano più alcuna resistenza. Il sole stava per scomparire dietro le vette dei monti e le ombre del gruppo di uomini si proiettavano lunghe sulla neve. E io ho visto il conte giacere nella cassa sopra la terra, una parte della quale si era sparpagliata addosso a lui a causa della brusca caduta dal carro. Era di un mortale pallore, simile a un'immagine di cera, e nei suoi occhi rossi brillava l'orrido sguardo vendicativo che io conoscevo anche troppo bene. Mentre io guardavo, i suoi occhi hanno visto il sole tramontare e il suo sguardo di odio si è trasformato in un'espressione di trionfo. Ma in quell'istante stesso il gran coltello di Jonathan è piombato lampeggiando su di lui. Ho lanciato un urlo nel vederlo recidergli la gola. In quel momento il coltello ricurvo del signor Morris si affondava nel cuore di Dracula. È stato una specie di miracolo. Sotto i nostri occhi, il tempo di trarre un respiro e l'intero corpo si è dissolto in polvere, scomparendo dalla nostra vista. Sarò lieta di ricordare per tutta la vita che nell'attimo stesso della sua dissoluzione finale è passata su quel viso un'espressione di pace quale non avrei mai immaginato di poter osservare in lui. Il castello di Dracula si profilava contro il cielo rosso e ogni singola pietra della sua crollante merlatura era disegnata nitidamente nella luce del tramonto.